la domanda che faccio io è: che vittoria è quando la città dove abiti, dove hai detto che hai lottato, dove si è divisa, si è impedito il raddoppio di un hub petrolifero, eccetera, la stessa città che ha accettato il ricatto del lavoro dell'Ilva e ha accettato. Perché Taranto è una delle città con più alto tasso di mortalità, sia tumorale, sia infantile che adulta, ha accettato di devastare, di distruggere il futuro anche delle stesse, proprio stesse generazioni. Non stiamo parlando di gente in Afghanistan, stiamo parlando di tuo figlio. Cioè, dello stesso per cui tu accetti il compromesso, dello stesso perché tu vai a lavorare e diventi Infatti la un battaglia la servo. stiamo facendo anche su quel Quindi il fronte. discorso del tecnico e di No, quello che vuoi allora, accettare. scusami un No, attimo. per dire, Io cioè, aspetta, però fammi parlare, io ti ho fatto parlare. sì, no, Cioè, ma vorrei che parliamo. rimanesse sul discorso del tecnico, perché io ho detto Parliamo su che tutto. Io se... prima No, ma. l'abbiamo affrontato a 360 Eh sì, ma gradi. fammi finire. Il discorso mio non è sul tecnico. Tu puoi andare pure a vincere quella piccola battaglia, quel piccolo fatto, eccetera. Il discorso È reale. culturale, certo. No. Non è neanche solo culturale. Il discorso è l'obiettivo che uno ci si pone. Dove si vuole arrivare con quella battaglia? Se la battaglia è il fine ambientalista, che può avere pure tutto il fine che vuole, o se la battaglia è la messa in discussione dell'elettricità, come si diceva del TAP, o dell'elettricità, del petrolio che si vuole estrarre. Cioè, è quello che noi subiamo da queste scelte, è quello dove ci vogliono portare ad arrivare. Quindi, dal mio punto di vista, ci può dire tutto. Ma la signora diceva del, non mi ricordo come si chiama, della raccolta differenziata, quella è una battaglia che non è una vittoria, è la più grande sconfitta che si è mai ottenuta, per un semplice motivo, perché la raccolta differenziata non impedisce la produzione di un prodotto, la raccolta differenziata monetizza il rifiuto. Io, cioè i miei nonni, io non mi ricordo i miei nonni facevano rifiuti. Tenevano i boccacci di vetro per le conserve, tenevano le bottiglie di vetro per l'olio. Cioè, il discorso è che noi non è che dobbiamo dare noi la soluzione ce la stanno chiedendo loro per quello, il disastro che hanno creato loro su quel tipo di produzione, questo tipo di vita. Ma non abbiamo mica vissuto sempre così, per esempio. Allora, io non vado a dare la soluzione alla devastazione e all'emergenza rifiuti attraverso la raccolta differenziata, perché la raccolta differenziata non fa altro che creare un'ulteriore produzione di rifiuti, solo che poi diciamo così, ci puliamo la coscienza dicendo: ah, buttando il vetro comunque il 30% lo recuperiamo. Sì, va bene, ma quel 30% che hai recuperato è lo stesso vetro che tu stai spaccando ogni giorno, piuttosto che non farlo proprio Non devi rifare produrre rifiuti, quindi. un'altra bottiglia di vetro, per esempio, no? Quindi ci stiamo dando degli obiettivi, comunque dei No, risultati, scusami, delle. l'obiettivo è di arrivare a ridurre a monte la raccolta, hai capito? Produzione, A ma lui vuole la monte! E produzione. noi Ma è la questi li produzione, non è la raccolta vogliamo. Non differenziata. monetizzare La le raccolta spazzature, perché differenziata. sappiamo che Quello c'è che dice. anche dietro questo, poi c'è l'interesse e il conflitto di interesse. A monte vogliamo Ma il arrivare monte non lo e ci non dobbiamo arrivi arrivare a un dalla discorso che ho stiamo capito. facendo, capito? Però Però comunque la verità, però quando è il discorso successa che volevo. l'emergenza rifiuti in Campania a Benevento, che è dove io abito, la raccolta differenziata già si faceva, e noi sappiamo un nesso successivo tale e quale. Non lo Ma so, però da comunque, noi forza, sta però scusate, funzionando, però ci sono insomma, anche. perché Per, funziona che a solo per Napoli, non è che concludere. le No, il megalopoli, discorso è un altro. Il cioè, fatto è che poi non so tanto a dobbiamo. te. Sì, mi sembra che abbiamo questo spirito di accollarci tutto il male che c'è sulla faccia della terra, anche attraverso il discorso della raccolta differenziata e della produzione di rifiuti. Cioè, noi siamo una minima parte di tutto quello che c'è. Il fatto dell'industrializzazione, il fatto dell'energia e della voracità di energia che c'è bisogno in questa società, non la siamo, non è che siamo noi con Sky, con la ricarica del cellulare, col computer acceso che consumiamo l'elettricità. La vera elettricità la consumano le fabbriche, le industrie. Ecco, Le vere energie le l'acqua, mettono, la sono loro, è tecnica. l'acqua di quello che hanno bisogno. Cioè, La loro hanno tecnica, bisogno di tecnica. acqua per raffreddare i motori, per raffreddare per i vari impianti, e sono loro che consumano, sono loro che producono. La vera monnezza, cioè non è, siamo anche noi sicuramente, però non è che siamo sempre solo noi. Cioè, noi siamo semplicemente una ruota. Possiamo pure arrivare fra questi 30 persone al rifiuto zero, ma non è cambiato niente. Non è Non quella. cambierà niente, e non cambierà niente neanche facendo un discorso tecnico, di come si arriva al rifiuto zero, perché il tuo interlocutore non ha l'interesse del rifiuto zero, perché l'interesse è la produzione. E il discorso è proprio capire chi è l'interlocutore. Cioè, noi per l'esperienza personale che abbiamo avuto noi, a livello di partecipazione, per quello che diceva, mi collego a Riccardo, per il discorso di Napoli, quello che è successo durante l'emergenza rifiuti a Napoli, quello che ho vissuto personalmente, è stata proprio questa una grande, cioè, la grande contraddizione. Fra Pianura e Chiaiano, dove si è aperta la discarica? È stata a Chiaiano. E a Chiaiano si è aperta perché a Chiaiano si è sceso a compromesso con lo Stato attraverso la via istituzionale, in cui hanno detto: non vi preoccupate, mettiamo i tecnici noi e mettete i tecnici voi. Se non si può fare, i nostri tecnici dicono la loro, i vostri tecnici diranno la loro, e poi vediamo se si può fare. Li hanno infinocchiati, si è fermato tutto il discorso di protesta di piazza, e praticamente gli hanno dichiarato Chiaiano come centro strategico nazionale. Ti hanno messo l'esercito e tu hai dovuto avere la discarica. A Pianura, dove non c'è stata alcuna non c'è stato nessun dibattito, comunque non c'è stato un interlocutore istituzionale, perché quello che c'era per propri fini personali non aveva l'interesse di aprire la discarica, non hanno avuto la capacità di poter aprire la discarica. Anche perché c'è da dire una cosa, il fatto di riallacciarsi anche al discorso delle masse, la gente come partecipa, perché a Pianura c'era un'esasperazione. Già c'era la discarica. Ecco. Che qua non c'è, che al TAP non c'è, che altri resto non c'è. Ci piaceva una discarica da 40 anni che era già stata imposta e dove già hanno sversato di tutto. Quindi c'era già gente che aveva sulle spalle la morte dei familiari e che quindi ha detto a un certo punto. Sono una di quelle. Ecco. Dove si è detto: mo basta. Quello che abbiamo pagato, mo c'è tutto, cazzo. O sbaglio?